2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Un buon Natale anche da 2024 da Enrico Pagliarini, dalla nostra piccola redazione, da Anita Panizza. Ricordate il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci: 2024@radio24.it. In questa giornata di festa per buona parte degli italiani, non tutti, perché ci sono anche quelli che stanno lavorando, anche a Radio 24 ci sono quelli che stanno lavorando. Dicevo, in questa giornata di festa abbiamo preparato una puntata speciale, potremmo dire una puntata più leggera del solito. Allora, ho fatto un piccolo riepilogo di quello che è successo in questo 2013, dovremo poi abituarci a dire 2014. Beh, probabilmente uno dei fatti più interessanti ed eclatanti del 2013 è quello che noi in Italia abbiamo definito Datagate. Non viene definito così nel resto del mondo, cioè le rivelazioni di Edward Snowden, che ci ha raccontato da quest'estate come funziona il complesso e gigantesco sistema di controllo della rete internet messo in piedi dalla National Security Agency americana. Naturalmente queste rivelazioni hanno costretto i capi di Stato a prendere posizioni facendo finta di stupirsi di cose che tutti sapevano benissimo. Il nodo centrale di questo sistema di sorveglianza della NSA sono le grandi dorsali in fibra ottica dove viene intercettato il traffico internet. Ne abbiamo parlato più volte. E direi di tutte le cose che ho riepilogato in questi ultimi giorni e che oggi vi racconterò in breve, abbiamo fatto molti approfondimenti, quindi nel nostro archivio su www.radio24.it trovate molte delle informazioni che abbiamo raccontato quest'anno. Però le ultime rivelazioni di Snowden di pochi giorni fa parlano addirittura di un sistema estremamente capace di controllare anche gli smartphone. Oh, naturalmente non spiano solo gli americani, diciamo che in altri casi un Edward Snowden forse non avrebbe pronunciato molte parole prima di incontrare una morte improvvisa e casuale. Naturalmente i servizi segreti cinesi, russi, israeliani, inglesi, giapponesi, indiani sono molto evoluti, anche tecnologicamente molto avanzati per mettere sotto controllo un po' tutto il mondo. Sicuramente è facile pensare che per via anche di una industria molto evoluta, soprattutto in campo software, gli americani hanno un vantaggio competitivo, potremmo dire così. Fate caso solo agli smartphone e ai sistemi operativi che hanno gli smartphone. Sì, gli smartphone sono prodotti in Asia, ma i sistemi operativi, quindi l'intelligenza, è made in USA. Apple con iOS, Google con Android, Windows Phone di Microsoft, quel che rimane di BlackBerry, che tecnicamente non è americano ma è canadese, comunque Nord America. E poi ci sono altri sistemi operativi open source, parleremo anche di questo. Allora, tutto ciò di cui abbiamo parlato da quest'estate pone a tutti i cittadini e alle aziende di fronte alla necessità di proteggere le proprie informazioni. E potremmo dire, se probabilmente lo spionaggio di Stato non pone rischi per i cittadini tra virgolette onesti, perché solitamente i target sono i criminali, le attività militari, le attività diplomatiche, però diciamo che cittadini e aziende dovrebbero proteggersi da minacce di altro tipo, tipicamente il crimine informatico, quello che va sotto il nome di cybercrime. A proposito di cybercrime, quest'estate Catherine Ashton, la responsabile per la politica estera e la difesa dell'Unione Europea, assieme ai commissari all'agenda digitale Neelie Kroes e a quello agli affari interni Cecilia Malmström, hanno presentato la strategia europea contro il cybercrime. Anche in Italia si sta lentamente disegnando un sistema nazionale, ma soprattutto le aziende dovrebbero attivare sistemi forti e, potremmo dire, politiche, policy di protezione dei dati, quindi un'organizzazione che cerca di proteggere i dati. Oggi i dati e le informazioni sono le cose più preziose che abbiamo e quindi vanno adeguatamente protetti. Il 2013 potrebbe essere ricordato per l'Italia anche come quello della completa liberalizzazione del Wi-Fi. C'è ancora molto dibattito sul tema, però potremmo dire che sostanzialmente tutti i tentativi fatti hanno portato alla liberalizzazione del Wi-Fi. Quest'anno Google si è comprato Waze e Google ha presentato i Google Glass. Sicuramente i Google Glass sono l'aspetto più rappresentativo, più riconoscibile di quel megatrend che va sotto il nome di wearable technology, quindi di tecnologia indossabile. Quest'anno si è quotato in borsa Twitter, Microsoft ha acquistato Nokia, diciamo che il passaggio completo avverrà il prossimo anno, comunque l'annuncio e la decisione è stata presa quest'anno. Sempre a proposito di Microsoft, è arrivato Windows 8 e anche Windows RT, facendo un po' di confusione perché il pubblico ancora non ha compreso che qual è la differenza tra Windows 8 e Windows RT. Comunque c'è stata anche questa novità. Quest'anno è stato l'anno dell'addio di Steve Ballmer alla guida di Microsoft. E a proposito di Microsoft, l'antitrust europeo ha multato per 561 milioni di euro l'azienda americana per non avere garantito agli utenti europei di Windows la possibilità di scegliere il browser. C'era un famoso accordo tra l'Unione Europea e Microsoft per un periodo di tempo. Microsoft ha detto che si è trattato di un errore tecnico, cosa che fa un po' ridere. Diciamo che non c'era la possibilità di scegliere il browser. Quest'anno potremmo anche ricordarlo come l'anno del mancato sviluppo del 4G. Ci sono stati annunci e quindi molte attese. In realtà le reti 4G si stanno espandendo lentamente, sicuramente molto più lentamente rispetto alle aspettative. Non accenna ad accendersi il dibattito nazionale su una rete in fibra ottica, il cosiddetto Next Generation Network, soprattutto per la presenza ingombrante del dossier Telecom Italia. Siamo lontani dagli obiettivi dell'agenda digitale, ma almeno il governo ha nominato Francesco Caio rappresentante responsabile per l'agenda digitale italiana. Il 2013 sarà ricordato forse più dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico, ma è sicuramente un annuncio importante anche per noi, come l'anno dell'avvio ufficiale delle trasmissioni del digitale radiofonico terrestre, del digitale terrestre radiofonico, quello che abbiamo sempre conosciuto come DAB, il Digital Audio Broadcast, che oramai viene definito come Digital Radio. E sicuramente questa è una notizia importante, abbiamo parlato più volte anche di questo e sicuramente torneremo a parlare di questo. Il 2013, poi iniziamo con l'approfondimento di questa giornata, il 2013 è l'anno in cui gli smartphone hanno superato in termini di vendite i classici telefonini, i normali telefonini. A proposito di telefonini, c'è stata una crescita incredibile del sistema operativo Android e molti produttori si stanno domandando se forse questo sistema operativo non sia troppo ingombrante. E allora abbiamo visto arrivare quest'anno telefonini con altri sistemi operativi sempre nati da Linux, Firefox OS, recentemente Yolla Phone, che ha un sistema operativo che si chiama Sailfish, e su questa scia vedremo molte cose il prossimo anno. Bene, di che cosa parleremo in questa prima parte di 2024? Di social network. Non ne parliamo spesso, ma questo è un tema sicuramente molto interessante. Saluto Massimo Sideri, che è un collega del Corriere della Sera. Massimo, benvenuto, bentornato a 2024. Grazie. Ed è con noi anche Gianluca Diegoli, che è un esperto di digital marketing. Benvenuto anche a te. Grazie. Ci sono tanti modi per presentarti. Massimo, vorrei partire dal mondo dei consumatori, perché in questa puntata di 2024 vorrei parlare di social network cercando di capire che cosa sta cambiando per le persone nella vita di tutti noi, direi di buona parte della popolazione, e anche che cosa sta cambiando o dovrebbe cambiare per le aziende. A proposito di cosa sta cambiando per noi, Massimo, io ho detto buona parte della popolazione ha cambiato alcuni atteggiamenti nella vita di tutti i giorni grazie o a causa dei social network. Quanti in Italia? In Italia siamo circa 25 milioni presenti sui social network, che è una cifra sostanzialmente incredibile, il 50% della popolazione, escludendo bambini. Sì, bambini o anziani, insomma, bambini gente anziani, che dovrebbe esserci il 50% della popolazione in difficoltà. Ormai il discorso del digital divide non esiste più, perché si accede tramite smartphone, e anche nel sud Italia ormai c'è una diffusione ampia di smartphone. Esatto, i social network e mobilità stanno crescendo molto. Io ti ho invitato perché noi parliamo molto di tecnologia fuori dalla radio, e ogni tanto merita invece di fare una chiacchierata anche radiofonica, anche perché tu hai scritto un libro, parto dal sottotitolo, che mi ha colpito di più il sottotitolo: Posologia e precauzioni per l'uso dei social network, che si intitola Tecnologismi. Leggendo mi sembra che tu sia giustamente critico nei confronti di tutto quello che ci sta succedendo. Beh, io utilizzo questa formula degli antibiotici per parlare dei social network. Dico che sono una delle più grandi invenzioni dell'umanità, però esattamente come le medicine, gli antibiotici, se presi nel momento sbagliato, fuori dalle indicazioni dei medici, possono fare molto male. Quindi credo che sia un'indicazione che può essere utilizzata tranquillamente. Social network a livello collettivo stanno mostrando una grande forza, un grande impatto culturale. Basti pensare alla primavera araba o altri esempi dove hanno mostrato di poter far ottenere un risultato anche di democrazia. Però a livello individuale l'individuo può rimanere schiacciato in realtà dietro la forza di questi social network. In effetti queste cose, che poi molto spesso si riducono a Facebook, ci stanno rubando un sacco di tempo. Sì, questo è esattamente quello che stiamo vivendo tutti, anch'io lo vivo. Una delle prime cose che facevo al mattino svegliandomi era guardare l'SMS o l'email, adesso si guarda nei social network. E la giornata tendenzialmente inizia sui social network e finisce sui social network. Gianluca, se non ci fossero i social network, tu non faresti questo mestiere? Eh sì, in certo senso è vero. Io in realtà come massimo punto a dire alle aziende un uso consapevole dei social network, nel senso di non per la loro salute come per i privati cittadini, che diceva Massimo, ma per il loro ritorno, diciamo, dell'investimento. Insomma, i social network non sono la panacea di tutti i mali, non sono la soluzione a un prodotto scadente, non sono la cosa per il quale il budget aziendale online verrà investito al 100%. Però a proposito di professioni, è vero che grazie ai social network sono nate molte professioni? Beh, questo certo, è un aspetto positivo. Assolutamente, le aziende hanno bisogno di gestire questi canali, ogni azienda ha a disposizione un nuovo modo di interfacciarsi, di relazionarsi con i propri consumatori, con le proprie persone, con i propri fan. E ha bisogno di redazioni, praticamente. Ogni azienda ha bisogno di una propria redazione, che può essere un'agenzia esterna o interna, però sono nuove professioni che vengono create: creatori e diffusori di contenuti e persone che si occupano di gestire questo dialogo con le persone sui social network. Che è una cosa tutt'altro che semplice, molto, molto complessa, quindi è per questo anche che ci vogliono gli esperti. Quando parliamo di aziende, parliamo di tutte le aziende, perché io a volte mi chiedo, ma i social network servono anche all'idraulico, a chi ha un'edicola, l'elettricista? Guarda, io non credo che sia né una questione settoriale né una questione dimensionale, nel senso che quello che cerco di inculcare quando faccio un corso di formazione o faccio una consulenza è: a cosa vi serve? Cioè, l'uso di un social network può essere legato a un vostro obiettivo aziendale. Un obiettivo aziendale è: voglio migliorare il customer care, voglio avere informazioni su come le persone usano i miei prodotti, voglio abbassare il costo della pubblicità per vendere i miei prodotti. Allora, se parto da obiettivi di carattere aziendale, riesco a capire se mi servono o no. E poi ci sono anche comunque delle sorprese, no? Tutti noi siamo portati a dire, ma l'idraulico, forse davvero l'idraulico, forse faccio fatica a vedercelo, però ci sono anche piccoli esercizi che usano Facebook davvero in modo alternativo e innovativo. Io appena esco da un corso per agenti di viaggio, le agenzie di viaggio, e ci sono molte agenzie di viaggio che tramite Facebook riescono a rimanere in contatto con le persone che loro mandano in vacanza, ricevono le foto e creano comunque coinvolgimento. Quindi a volte non è nemmeno una questione di grandi budget, ma è questione di saperci fare. Sì, sì. Senti, a proposito di precauzioni per l'uso, che cosa vorresti dire? Ma io sono un grande amante di Twitter, credo un po' come tutta la categoria dei giornalisti. È un consiglio sì, che do sempre di molti giornalisti. Uno dei consigli che ho dato nel libro è: attenzione, Twitter e i social network in generale sono come il pantalone di Eraclito, tutto scorre, però ricordatevi che le sciocchezze rimangono, quindi bisogna fare attenzione, perché possiamo tranquillamente commentare e dire qualunque cosa, ricordiamoci che rimangono lì per sempre e poi possono tornare. Per sempre? Per sempre. Questo forse non è chiaro a tutti. Per sempre, anzi Twitter da poco ha aperto l'archivio a tutto ciò che è stato twittato sin dal 2006, quindi una persona può andare a vedere tutto il nostro storico, tutto ciò che abbiamo detto, magari in un momento così di leggerezza. Quindi la componente di impulsività, visto che questi sono strumenti, come tu ci dicevi prima, che usiamo sempre più spesso online, quindi con uno smartphone, e siamo in movimento, magari vediamo un'affermazione, una frase, leggiamo una notizia e reagiamo subito, a volte anche in modo scomposto, e invece sì, magari siamo con errori grammaticali, con tutte le complessità dell'immediatezza. Esatto, il problema sono le affermazioni che facciamo, che appunto rimangono lì, magari dopo 3 o 4 anni potrebbero essere usate contro di noi? Assolutamente, tutto può essere utilizzato contro di noi, tant'è che in California per i teenager è stata introdotta questa legge che permette un po' di pulire la fedina penale dei social network, cioè c'è la possibilità di chiedere ai social network di cancellare tutto ciò che è stato postato, che è un modo molto intelligente, se vogliamo, di comprendere che ci può essere una fase giovanile, una fase adulta nell'utilizzo di questi strumenti. Cioè fai tutto quello che vuoi fino ad una certa età, poi ti diamo la possibilità. Poi iniziamo a ragionare. Non esiste la possibilità di cancellarsi, di cancellare quindi anche quello che c'è stato scritto su Facebook, Twitter, eccetera? Ma fondamentalmente no, perché anche se noi chiudiamo il nostro account di Facebook, tutto ciò che è stato condiviso comunque rimane negli account degli altri, quindi dovremmo avere una dispensa speciale con Zuckerberg per far cancellare tutto. Certo, senti, noto che non si capisce più nulla di quello che noi mettiamo in condivisione, cioè quando io faccio una foto e la pubblico, faccio fatica a capire chi vedrà questa foto, solo i miei amici, tutti, è un problema. Questo è un dibattito enorme, perché all'inizio almeno la distinzione di massima è che Twitter è pubblico e Facebook è privato, cioè su Twitter noi perdiamo completamente anche il diritto d'autore rispetto a quello che scriviamo. Se andiamo a guardare le postille del contratto che accettiamo, addirittura Twitter potrebbe pubblicare tutto ciò che noi diciamo senza darci il diritto d'autore. Facebook in generale è una condivisione controllata all'interno della rete di amici, ma tanto sappiamo che la potenzialità esponenziale fa sì che noi perdiamo completamente il controllo di quella fotografia. Sì. Gianluca, esiste questo problema o un falso problema? Un mio problema che non capisco bene come impostare la privacy. Allora, diciamo che secondo me Facebook ci ha giocato nel tempo, no? All'inizio ha sempre, con la scusa di rendere la privacy estremamente customizzabile, personalizzabile, la privacy su Facebook era estremamente complicata. Finisce che molte persone lasciano o tutto pubblico o tutto privato, ecco. Twitter e Instagram hanno almeno il vantaggio di avere una divisione binaria, aperto o chiuso. La maggior parte delle persone sceglie di lasciare aperto sia su Instagram che su Twitter. C'è da dire che comunque queste limitazioni di privacy sono sempre soggette al fatto che tu ti fidi della tua rete, perché io posso essere nella tua rete e quindi vedere i tuoi post privati, ma io posso stamparli, fare un JPEG e mandarli, pubblicarli a tutto il mondo. Quindi attenzione a quello che si pubblica anche nelle cose private, perché poi tutto quello che viene visualizzato su uno schermo può essere, può essere fotografato. Sentite, rivolgiamoci a chi non usa i social network. Allora, a me piace molto Twitter, ad esempio. Massimo, secondo te, se uno non li usa, che cosa si sta perdendo? Allora, si sta perdendo il fatto che possono parlare di lui e lui non se ne accorge. Secondo me questo è il pericolo peggiore. L'uomo della strada. Tu dici vicini, gli amici, certo. Nulla impedisce di parlare di noi sui social network, quindi è molto complicato. Ormai la rete, la famosa regola dei 6 gradi di separazione è dimostrata. Qualcuno probabilmente su internet sta parlando di noi anche se noi non andiamo mai su internet, quindi probabilmente quello che si perde è qual è l'immagine che gli altri hanno di loro. E questo forse, Gianluca, questo è un buon motivo per cui ad esempio le aziende dovrebbero andare a vedere che cosa dicono. Beh, le aziende si perdono appunto questo feedback di ritorno, che è un grande focus group a cielo aperto che si svolge ogni minuto, no? In rete, in modo spontaneo, in cui le persone liberamente dicono cosa ne pensano dei tuoi prodotti, dei tuoi servizi. E questo è una grande. Quindi le aziende dovrebbero monitorare tutti i social network. Partecipare magari no, perché non è detto che un social network dove non sono presenti il mio cliente tipo, il mio target, per usare questa brutta parola, magari non serve che io ci impegno risorse nel creare contenuti per quella piattaforma. Mi basta vedere cosa succede. Senti, social network che ti piacciono in questo momento, al di là di Facebook che molti conoscono, Twitter, visto che insomma ne nascono quasi tutti i giorni, ci sono anche un sacco di social network molto verticali, quindi un social network che si occupa solo di cani, solo di gatti, solo di cibo e magari solo di cibo di un certo tipo, eccetera eccetera. Ma guarda, più che social network verticali che ci sono in realtà, ma forse hanno un po' perso il treno, diciamo che non sono riusciti cioè ci sono molte community, no, all'interno di social network più grandi. Faccio il nome per esempio di Tumblr, no? Tumblr è un social network molto sottovalutato, un po' sotto traccia, no? Che non è ancora entrato nei radar per esempio degli uffici marketing, se non all'estero. Forse in Italia ancora lo sottovalutiamo molto e non lo conosciamo. E all'interno di Tumblr ci sono la condivisione di immagini che può essere fatta con tantissime community sul food, sul fashion. Ci sono comunità che si scambiano le foto dei tatuaggi, quindi io credo molto in questo tipo di social network. Poi ci sono anche social invece giovanilistici, tipo Ask FM, è venuto un po' alle cronache un po' per motivi non proprio costruttivi, che però viene usato molto dai teenager. Sì, infatti questo me lo sono segnato, Ask FM. Mi sono segnato anche Snapchat, che è questo social network che permette di mandare un messaggio che si distrugge. A proposito, Massimo, di diritto all'oblio, cioè c'è il diritto all'oblio insito nel sistema, no? Sì, è molto amato dai teenager, tant'è che avrete letto che i teenager stanno fuggendo da Facebook, soprattutto nei paesi anglosassoni, e stanno sempre di più utilizzando queste nuove forme di social network. Allora, mi hanno detto che i teenager fuggono da Facebook perché su Facebook ci sono i genitori. Anche quello è quindi uno dei metodi. Ma guarda, visto che siete entrambi papà, potete esatto, dire tutto quello che volete. Io ho l'impressione che Facebook venga usato un po' con poco entusiasmo, almeno per esperienza personale di mia figlia, con poco entusiasmo, ma come uno strumento magari per mandarsi messaggi, per avere dei gruppi privati. Mentre il vero grosso delle conversazioni avviene in canali totalmente privati come WhatsApp. Sentite, adesso ci fermiamo per una breve pausa. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24 nella giornata di Natale, quindi vi rinnoviamo i nostri auguri per queste festività, non solo da parte di 2024 ma di tutta la nostra redazione. Ci risentiamo tra poco. 2024. Stiamo parlando di social network in questa puntata di Natale, puntata speciale per il giorno di Natale. Stiamo parlando di social network con Massimo Sideri, che è un collega del Corriere della Sera, ha scritto Tecnologismi, e con Gianluca Diegoli, che è un esperto di social media. Io sono Enrico Paglierini e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast per ricevere settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Dunque, siete d'accordo, come diceva una persona che conoscevo qualche anno fa, che diceva i social network sono come i club, passano le mode e si cambia, le persone passano da un club, da una discoteca oppure da un bar, da un locale ad un altro. Ma lo dicevano anche di Google all'inizio, è un club, cambierà, sono morti tanti motori di ricerca e sì, Google sarà soltanto uno dei tanti. Tendenzialmente quando si prende una posizione di vantaggio e si monopolizza il mercato, poi è molto difficile tornare indietro, quindi. Sì, sono d'accordo, tant'è che la rete sociale di Facebook, che è stata creata dalle persone della strada, no? Gente che non ha la voglia di andare su 200 social network, usa quello e prima che tutti i suoi amici vadano su un altro social network, questo non lo cambierà mai. Sì. Senti Gianluca, ci racconti che cosa si può fare, cioè un'azienda quindi che ha una struttura, che ha un progetto, una strategia digitale, che tipo di informazioni può ricavare dai social network, al di là di sapere che Massimo Siderio e Enrico Paglierini parlano bene o male di un certo prodotto, eccetera, eccetera. Perché una delle cose che si dice più spesso è che I social network sono una delle fonti dei famosi big data, quindi si possono raccogliere grandi quantità di dati per analizzare flussi, tendenze, eccetera, eccetera. Non so, ci puoi spiegare più concretamente quello che In questo momento il grande utilizzatore di dati sono i grandi player, cioè sicuramente Google e Facebook sono quelli che raccolgono, vivono di dati, no? Vivono di dati per riuscire a proporre advertising pubblicità, alla fine sempre lì torniamo, pubblicità sempre più targetizzata e sempre più profilata a seconda dell'utente. Le aziende cosa ci ricavano? Quali dati ci ricavano? Le aziende su Facebook, ma anche su tutti gli altri social network, sono un po' in prestito, sono in un appartamento che hanno in affitto, un appartamento che non è loro sostanzialmente. Quindi Facebook in questo momento sta allargando molto le statistiche che dà a disposizione delle aziende che partecipano con le loro pagine. Ti dice l'età anagrafica, ti dice quali sono quelli che conversano di più, in quali città abitano. Insomma, gli dà un buon spaccato di quali sono i tuoi fan online. Quindi però, in teoria anche i tuoi consumatori. E in teoria dovrebbero essere anche i tuoi consumatori, quindi interpolando tra questo, quelli che ti seguono su Facebook e i tuoi acquirenti consumatori puoi capire se acquistano di più o acquistano di meno e incrociare i dati. Però i veri dati, diciamo, quelli, la cassaforte ce l'ha ben in mano. Quindi da un certo punto di vista mi verrebbe da dire, ma allora perché, care aziende, andate in questi luoghi e portate così tanto valore a queste grandi aziende? Quindi, come dire, se tutte le aziende vanno su Facebook, portano un valore soprattutto a Facebook, no? Beh, guarda, quando io vedo a volte anche in giro piccoli negozi che mettono fuori dei cartelli "seguiteci su Facebook", no? Con l'indice alzato così, I con like. La scritta, quella è tutta advertising gratis ovviamente che Facebook guadagna, ma le aziende ci stanno perché non hanno alternativa in questo momento. Sostanzialmente, se Facebook è il canale con nel quale le persone più sono lì, e quindi incidentalmente è il canale con cui è più facile rimanere in contatto con loro, quindi sopportano questa cosa perché è il metodo più semplice per rimanere in contatto con i propri fan. Cioè, tu dici la gente è lì e quindi non si scappa. Esatto, è più facile prendere la gente lì spesso che portarla sul proprio sito. Sì, Massimo. Ma credo che sia un po' quello che succedeva per la TV negli anni passati. Le persone stavano incollate davanti al televisore e quindi bisognava fare pubblicità in TV, sì, sui canali televisivi. Sì. Adesso, come dici tu, spendiamo tempo sui social network, quindi bisogna fare pubblicità lì. Senti, ti faccio una domanda. Faccio la domanda al giornalista Massimo Sideri, più che a chi ha scritto un libro sui social network. È preoccupante che molte di queste società, queste aziende siano americane? Ma direi che è stato dimostrato scientificamente che è preoccupante. Lo scandalo della National Security Agency ha dimostrato che il fatto che siano tutte società americane, con dei bocchettoni dei servizi segreti americani dietro la porta, fanno sì che tutte le nostre informazioni e comunicazioni siano sorvegliate, anche se poi sorvegliavano, come sappiamo benissimo, i metadati, e quindi non il singolo dialogo tra Pajarini e Sideri. Sì, chissà. Chissà. Chissà. Senti Gianluca, ci sono dei social network pensati solo per la comunicazione dentro l'azienda, all'interno dell'azienda. Hanno senso queste cose? Sono utili? Stando alle aziende che li vendono, sì, moltissimo. Allora, le aziende che li vendono soprattutto per grandissime aziende, e li vendono a dei prezzi di solito esorbitanti, quindi ogni azienda deve calcolare davvero qual è il ritorno, soprattutto perché almeno le cosiddette intranet spesso rimangono cattedrali nel deserto, bellissime costruzioni informatiche in cui puoi fare grandi cose, sondaggi interni, forum, eccetera, però se la cultura aziendale non è portata a incentivare la condivisione, la partecipazione, rimangono appunto dei palazzi vuoti e disabitati. Quindi prima bisogna creare la cultura del social network all'interno, della condivisione all'interno, e poi si troveranno anche i modi, diciamo. Ma c'è senso questa cosa? Cioè, la modalità che i social network ci hanno abituato anche di condivisione, c'è senso per il lavoro in team? Io vedo che molte piccole aziende con le quali ho così contatto hanno cominciato a usare la consumerizzazione dei social network, nel senso usano gruppi o community su Google+, o usano gruppi Facebook per rimanere in contatto, o addirittura usano WhatsApp. È chiaro, non è il caso delle grandi aziende enterprise, insomma, però ha senso perché le persone all'interno delle aziende hanno bisogno di collaborare e di andare oltre la mail, perché tutti scoppiano di mail, non è possibile collaborare solo con questo strumento. Questa frase te la tagliamo e la mettiamo in loop, tutti scoppiano di mail. A proposito di posologia e precauzioni per l'uso dei social network, che cosa fare per i bambini, i teenager, anche se non è facile, eh? Sì, non è facile. Allora, i bambini direi di tenerli assolutamente fuori. Ricordiamo che c'è una legge che dice che sino a una certa età, 12 o 13 anni, adesso la stanno tentando le lobby americane di modificarla. Tu non potresti aprire un account su Facebook, e quello che succede chiaramente è che i bambini si fanno degli account finti, spesso con l'aiuto dei genitori, non capendo quelli che sono i rischi e i pericoli effettivi. Insomma, la pedofilia non è un'invenzione dei giornali su internet, e purtroppo è molto più diffusa di quanto crediamo, anche in Italia. Sì. Quindi i bambini, il consiglio da padre è tenere assolutamente fuori sino a quando non si riesce a fare un ragionamento più complesso con i propri figli. Dopo è difficile, perché credo che un figlio a 13-14 anni insegni al genitore o al padre. Poi quando ha lo smartphone siamo come finiti. Fare? Poi con lo smartphone è finito, quindi l'unico consiglio è quello di buon senso, tentare di ragionare con i propri figli, ma esattamente come quando gli diciamo le prime volte che escono, stai attento. Certo. Gianluca, sei d'accordo? Ma io ho avuto un atteggiamento un po' più libertario, devo dire che mia figlia, diciamo, ha barato quando sei iscritta su Facebook, speriamo che non m'ascolti. Io sono più d'accordo con Massimo, però. Io però diciamo che lei ha barato un attimo sull'età e si è iscritta un anno, due anni prima, adesso non mi ricordo. Ho preferito, diciamo, non vietarglielo, in modo da poterla affiancare nei primi momenti quando lo usava, insomma, a tenere un piede dentro e vedere cosa faceva. Poi a un certo punto è passata a Twitter, quindi Twitter, tutto quello che pubblica è pubblico, e quindi posso seguirla come un normale follower. Vi faccio un'ultima domanda, visto che abbiamo citato più volte Facebook e Twitter, che effettivamente sono per numero di popolazione attiva digitale i due principali social network. Non c'è veramente altro di interessante, divertente, che consigliate di utilizzare? Ma il problema è che siamo tutti vittime dell'effetto Google. Quando iniziamo a utilizzare Google, vediamo che funziona, e tendenzialmente poi su social network l'effetto è amplificato dal fatto che, come raccontava Gianluca, tutti i nostri amici alla fine sono dentro questi social network. Sì. Anche noi subiamo questo effetto e utilizziamo questi, quindi poi per lavoro mi capita di sperimentarli un po' tutti, però devo dire che poi si torna sempre a Twitter e Facebook onestamente. Ma guarda, il terzo incomodo è in Italia è sicuramente LinkedIn, che pian pianino da semplice database, diciamo, di curriculum, sta cercando anche lui di sfruttare un flusso anche di condivisioni e in modo da aumentare il tempo passato, diciamo, su questo tipo di network, che è prettamente lavorativo e professionale. Un'altra cosa da tenere d'occhio secondo me è anche Pinterest, soprattutto perché per certe nicchie la condivisione di prodotti sviluppa un vero e proprio social commerce, in cui noi siamo vediamo i prodotti condivisi dagli altri e veniamo ispirati ad acquistarli. Sì, una cosa che non abbiamo detto, la diciamo per gli ascoltatori che non conoscono bene il fenomeno dei social network: i social network guadagnano con la pubblicità, prevalentemente con la pubblicità, giusto? Sì, assolutamente, assolutamente sì. Hanno inventato però un nuovo modo di fare pubblicità, cioè addirittura quello che è pubblicità nativa, quindi sono passati dal banner, no, che mostra gravi segni, diciamo, di appiattimento nei budget investiti anno dopo anno, al fatto di un nuovo tipo di pubblicità che è composta da un contenuto che viene promosso, quindi contenuti che devono essere comunque buoni e vengono promossi con l'advertising, quindi è un altro modo di fare advertising. Sì, aggiungerei soltanto quando riescono a fare pubblicità, perché poi non tutti ci riescono, i modelli di business di alcuni non sono ancora chiari. Ah sì, sì, bravissimo. Bene, io ringrazio Massimo Sideri per essere stato con noi. Massimo, a presto, grazie, buon a lavoro. Presto. Devi dirlo però più vicino al microfono. Grazie, a presto. E grazie anche a Gianluca Diegoli. Grazie a voi. Siete all'ascolto di Radio 24, questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro programma va in onda normalmente il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15 e le 16, oppure la domenica in replica tra le 23 e la mezzanotte. Ci occupiamo di tecnologia, naturalmente ci trovate anche in podcast, anzi vi consigliamo di abbonarvi al nostro servizio podcast. Dunque, tra le cose che sono successe nel 2013, bisogna già abituarsi al 2014, però tra le cose che sono successe quest'anno, non ho citato prima nel mio intervento iniziale una cosa che forse molti non ritengono essere importantissima, ma visto che riguarda l'unica tra le grandi aziende di telecomunicazioni, l'unica italiana, cioè Tiscali, perché oramai tutte le altre aziende sono straniere o comunque controllate da capitali stranieri. Allora, Tiscali quest'anno ha lanciato Istella, che è un motore di ricerca sicuramente ancora giovane, diciamo così, però sicuramente molto interessante. www.istella.it è il motore di ricerca che viene utilizzato sul sito internet di Tiscali. Ricordiamo anche che Tiscali continua a spingere il proprio sistema di instant messaging in Duna. Che cosa osservare nel prossimo anno? Allora, sicuramente, diciamo, ci sono alcune cose da tenere sott'occhio. Non ci saranno annunci eclatanti, stiamo parlando di tecnologie che si evolveranno e che ancora sono per buona parte in fase sperimentale. Però, allora, sicuramente i droni. Però sui droni abbiamo parlato molto quest'anno, abbiamo fatto almeno un paio di trasmissioni, comunque ci siamo tornati spesso sull'argomento. Già oggi vengono utilizzati in molti settori e sempre più li vedremo utilizzati in settori diciamo professionali sicuramente, ma gradualmente anche verso il settore consumer. Torneremo a parlare sicuramente di questo argomento. Poi, tecnologia indossabile. Abbiamo visto molto poco, tutto quello che abbiamo visto quest'anno, diciamo, potremmo ridurlo a gli smartwatch, o certo anche le cuffiette sono una tecnologia indossabile, ma molto poco tecnologiche. Diciamo che gli smartwatch ancora non si sono espressi al meglio, stiamo parlando di cose che sono piuttosto acerbe. Comunque questo è un trend molto interessante. Poi, stampa 3D. Su questo abbiamo già visto molto, ma vedremo cose interessanti il prossimo anno. Ad esempio, HP ha detto recentemente che questa tecnologia, la stampa 3D, si imporrà nei prossimi almeno 2-3 anni, quindi ci vorranno almeno 3 anni perché queste stampanti diventino prodotti di massa. Tuttavia, il prossimo anno HP ha annunciato che entro la metà del prossimo anno lancerà sul mercato una stampante 3D di qualità a basso prezzo basata su una nuova tecnologia che dovrebbe ridurre i tempi di stampa. Quindi se entra HP, un colosso della stampa, sicuramente vedremo alcune cose interessanti. Poi un altro trend, un altro mega trend da tenere in considerazione è quello delle connected car, quindi le auto connesse, e sicuramente al Consumer Electronics Show che seguiremo a Las Vegas nella seconda settimana del mese di gennaio vedremo alcune applicazioni sulle auto connesse. Stiamo parlando di automobili vere e proprie. Altro mega trend che in qualche modo si lega anche alle auto connesse è quello della Internet of Things, la Internet delle cose, quindi molti più oggetti che si collegano alla rete Internet, che si animano grazie all'intelligenza che poi si collega alla rete Internet. Vedremo un'esplosione ancora nel prossimo anno. Di questo abbiamo parlato recentemente, abbiamo proposto un'intervista con il professore Stefano Mancuso, che è il direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell'Università di Firenze. E voi direte, che cosa c'entra tutto ciò con la Internet of Things? Beh, c'entra perché le piante sono dei sensori, visto che la Internet of Things di fatto è un'evoluzione basata sulla, in buona parte anche sulla sensoristica diffusa nelle nostre città. Beh, l'idea del laboratorio di neurobiologia dell'Università di Firenze è utilizzare anche le piante per la Internet of Things, affinché diventino dei sensori da collegare alla rete Internet. Prima di tutto dobbiamo cominciare a capire che le piante, contrariamente a quanto siamo stati abituati a pensare, non sono degli organismi passivi che stanno lì, vegetano appunto. Noi usiamo addirittura il termine vegetare per dire una cosa che non ha sensibilità e non ha più capacità intellettive. È proprio il contrario. Le piante sono innanzitutto, da un punto di vista di sensibilità, sicuramente molto più sensibili rispetto agli animali, cioè riescono